Il rumore sordo della portiera che si chiude, rimbombando nel freddo parcheggio di un centro commerciale, segna la fine di una giornata convulsa e nevrotica. È il 23 dicembre e si fa appena in tempo a salire in macchina che già si stancò da sul raccordo, con il bagagliaio pieno di pacchi regalo e la testa piena di quelle luci del cazzo che finiscono per addobbarti il cervello. E mentre alla radio passa la solita lagna natalizia, si sta lì, col volante in mano, a struggersi nel dubbio di aver dimenticato un regalo, a chiedersi se quel bagagliaio sia abbastanza pieno. Esiste una logica perversa in tutto questo. Lavoriamo, studiamo, produciamo per poter riempire quel bagagliaio il più possibile. Il sistema capitalista è riuscito ad inglobare a far sue tutte le nostre relazioni sociali, insegnandoci che non può esserci amicizia, affetto o relazione alcuna con i nostri simili se prima non si è comprato qualcosa per loro, non ci si è vestiti in modo adeguato o non si ascolta la musica giusta. Se si accetta e si somatizza la logica del consumismo, allora l'ansia di colmare quel vuoto dentro al bagagliaio coincide con l'ansia di colmare il vuoto nelle nostre vite. A questo dobbiamo quel cerchio alla testa che ci accompagna, uscita dopo uscita, lungo raccordo anulare pieno di macchine col bagagliaio mai abbastanza pieno. Intanto però non possiamo e né dobbiamo dimenticare che la nostra macchina sta consumando combustibili fossili che rilasceranno CO2 nell'atmosfera e quel brutto maglione regalato di fretta alla zia antipatica è contenuto in un imballaggio di plastica che si degraderà in centinaia di migliaia di anni e, con ogni probabilità, è stato prodotto in un paese lontano in cui non esistono né diritti né tutela dei lavoratori. L'assurda frenesia di un sistema che ti trasforma in un suo ingranaggio non sta soltanto dirigendo il ritmo della tua vita, ma sta rapidamente consumando le risorse naturali, giocando in tre popolazioni e devastando il nostro pianeta. Invocare una nuova logica di produzione non è più una questione meramente politica, ma un problema di sopravvivenza. Abbiamo sempre diviso il campo tra apocalittici ed integrati, riformisti e rivoluzionari, capitalisti ed anticapitalisti. In questo vedevamo il contrasto tra la scelta di stare dentro l'esistente, magari lottando per il suo miglioramento, o di rifiutare l'impianto stesso della società borghese, lottando per il suo rovesciamento. Sullo sfondo vedevamo un sistema che, pur nella sua brutale logica di profitto, aveva la forza di andare avanti, la prospettiva di durare a lungo. Oggi questa prospettiva viene meno alla stessa velocità con cui consumiamo la tredicesima in un centro commerciale. Invocare una nuova logica è diventata un'esigenza prima che una prospettiva di lotta politica. Serve un nuovo orizzonte ed ecco la speranza di poter dare un piccolo contributo alla sua ricerca che il collettivo Ecorais vi dà il benvenuto a Ecologica Gorziana, decima puntata di Onda Rais, l'ultima del 2010, settimanale di ecologia politica a cura degli studenti e delle studentesse della Sapienza. E alle 12.08 dagli studi di Radio Onda Rossa su 87.9 FM arriviamo a completare questa nostra introduzione per una puntata che segnerà il passo sicuramente con quella che sarà un po' la vecchia formula con cui abbiamo inteso Onda Rais negli ultimi tempi, insomma nei primi che poi hanno visto il nostro programma svilupparsi. Vediamo infatti questa nuova sigla che a qualcuno ricorderà nefasti programmi su MTV. Noi speriamo invece di farvi cogliere un po' anche il valore musicale di questa traccia, che non è sicuramente banale. Rassegna stampa e torneremo comunque all'analisi politica che avevamo un po' abbandonato per dare spazio agli eventi di movimento. Quest'oggi faremo la recensione, abbiamo chiamato questa puntata Ecologica Gorziana proprio in riferimento ad André Gorz, teorico dell'ecologia ed inventore di quella che è l'ecologia politica, e faremo la recensione dell'ultimo dei suoi lavori, proprio il libro Ecologica. Bene, ci muoviamo quindi verso la nostra rassegna stampa. Iniziamo con un sito che consultiamo molto spesso e che consigliamo ovviamente ai nostri ascoltatori, che è ecoblog.it. Ecoblog.it appartiene a quella emisfero, diciamo, di blog che fanno riferimento al network blog.it, ed è sicuramente interessantissimo e molto molto aggiornato. Noi troviamo questa prima notizia che è pubblicata da Peppe Croce proprio su Ecoblog: gela, 150 morti di tumore ogni anno per l'inquinamento. Troppi tumori nell'inquinatissima Gela, scrivono su Ecoblog, sede della raffineria dell'Eni e di molte aziende dell'indotto. Il movimento Polo Oncologico di Gela, che si batte per avere in città un ospedale dedicato ai malati di tumore, ha fatto due conti per ribadire che i numeri non tornano. A detta di Maurizio Cirignotta, presidente del movimento, secondo i dati forniti dal registro tumori Caltanissetta Ragusa, siamo di fronte a 4.083 diagnosi per tumori maligni a Gela, dato che si riferisce al solo periodo 2004-2008. Tra il 2004 e il 2007 i decessi causati da tumori in questa città raggiungono la soglia di 618. Purtroppo il problema non riguarda solo Gela, ma si estende anche ai comuni vicini, da Niscemia a Butera, tutti rientranti in un'area ad alto impatto ambientale. Che Gela sia una bomba ecologica e sanitaria ormai lo sanno tutti, basti ricordare che il petrolchimico è alimentato da una centrale a petcoke, che è uno scarto tossico del petrolio che in teoria non potrebbe essere bruciato, o che ci sono ben 500 lavoratori riuniti in un comitato che chiedono che si riconosca l'indennizzo per il rischio amianto, che al petrolchimico ancora abbonda, come ha ammesso persino la locale azienda sanitaria provinciale. Basta leggere il rapporto malaria di Legambiente per poi scoprire che la raffineria di Gela è la seconda vertenza ambientale per importanza in Italia dopo l'Ilva di Taranto. In una situazione del genere, se proprio non si vuole togliere il male, si potrebbe almeno costruire la cura. E così scrivono su Ecoblog. Noi obiettivamente oggi parliamo degli effetti del sistema proprio a ridosso del Natale, quindi anche di come dei semplici acquisti natalizi poi possano integrarsi in un sistema che distrugge l'ambiente, distrugge le nostre vite e, come vediamo, distrugge anche e soprattutto la salute. Where is my mind? Where is my mind? sicuramente uno dei link che vi passeremo anche dal nostro sito ecorice.org sarà quello ad un video piuttosto inquietante che viene citato sempre su ecoblog.it in un articolo dal titolo Storie di ordinaria monnezza, la discarica di Orvieto. In questo video realizzato da Water Emergency scrivono su Ecoblog: per il coordinamento Orvieto Rifiuti Zero c'è la storia di tutta Italia, posti meravigliosi che vengono devastati dalla gestione dei rifiuti incorretta e contraria alla normativa vigente. Nello specifico, Orvieto ha due discariche, una esaurita e l'altra quasi, e importa rifiuti da altre regioni. Di raccolta differenziata si parla poco, di differenziata porta a porta neanche un po'. Nel frattempo però in discarica finisce il 70% dei rifiuti solidi urbani prodotti, forse anche qualche rifiuto tossico, e il percolato si infiltra nelle falde acquifere, mentre le autorità stanno a guardare la montagna di monnezza che esce ogni giorno di più. Orvieto, come gran parte dell'Italia, non è in emergenza rifiuti, ma in emergenza gestione rifiuti, che sono due cose ben diverse, come ormai si è capito persino a Napoli. Chi di Orvieto non è, ma trova qualcosa di familiare in questo video molto semplice e ben fatto, sappia che la normalità in cui vive non è affatto così normale come qualcuno racconta. Infatti il video fa vedere proprio come venga gestita questa discarica di Orvieto, soprattutto quale sia l'impatto di questa discarica sul paesaggio, ed è un buon esempio di come il sistema poi finisca per rovinare e far suo, fare una questione propria interna alla produzione, non più esterna, e di cui avere rispetto tutto l'ambiente, no? E si faceva riferimento anche a Napoli, infatti c'è un articolo del 22 dicembre che riporta la notizia insomma sulla raccolta differenziata porta a porta che paradossalmente proprio funziona a Napoli. Il WWF, scrivono sempre da Ecoblog, ha appena pubblicato un video su YouTube per dimostrare che buona parte dell'emergenza dei rifiuti a Napoli è solo una questione di cattive decisioni politiche. Lo dimostra il contrario dell'emergenza, cioè la normalità, che anche a Napoli esiste, ma non solo nei quartieri dove è stata istituita la raccolta differenziata porta a porta, tra l'altro, con risultati che vanno dal 50 all'85%, numeri da profondo nord, lontanissimi dal centro storico napoletano, invaso dai sacchetti di plastica. Il video, sempre un altro video che mancheremo di linkare, è immediato e semplice, quasi naif, ma proprio la sua semplicità lo rende efficace, le immagini lo confermano. Dove si fa il porta a porta e le strade sono pulite, non c'è alcuna emergenza dei rifiuti. Track will go multi-platinum. Barbecue, a poker, while the effigies burn. You may not want to stay and see how we take care of a turncoat. Christiana's kind of far away, so come along with me. We can dance and trip E questi erano i NoFX con Anarchy Camp. Abbiamo parlato, ecco, soprattutto di un fattore che potrebbe essere marginale, ma in realtà non lo è mai, un fattore quasi estetico e di rovina dell'ambiente, anche in termini dell'immaginario che se ne ha attorno. È forse l'animale che più rappresenta meglio l'ambiente per quello che è il suo... che rappresenta meglio l'ambiente, scusate, per quello che è l'immaginario che fornisce, è proprio la farfalla. Ebbene, è uscito un appello proprio di emergenza delle farfalle che andiamo a leggere: l'utilizzo indiscriminato dei diserbanti, l'impoverimento dei terreni, la pulitura delle strade utilizzando macchinari che estirpano dal terreno ogni arbusto e specie vivente sono soltanto alcune delle cause che provano ogni anno la scomparsa di animali e vegetali preziosi per la ricchezza ecosistemica e per l'equilibrio degli habitat naturali. L'OSI WWF di Burano, nei pressi di Caparbio, Grosseto, ha lanciato iniziative in difesa delle farfalle coinvolgendo anche i bambini nelle scuole. Quindi vediamo poi fondamentalmente come anche l'agricoltura sia molto spesso posta, cioè come anche l'agricoltura sia uno strumento di degrado e di rovina dell'ambiente. E mentre si fanno le 12:24 e i Ramones non ne volevano sapere di partire, vi lasciamo comunque con Blixy Bob. E da Ecoblog ci spostiamo a Repubblica Ambiente, la sezione Ambiente, per dare una notizia che in realtà avremmo voluto dare qualche tempo fa. Mentre Roma era invasa dalle manifestazioni, non potevamo ovviamente non dare questa la precedenza a questi eventi di movimento, c'era arrivata comunque una notizia che ci fa del tutto piacere: salviamo le balene, ora ci pensa Godzilla. Ha preso il largo in Tasmania la nuova imbarcazione degli attivisti di Sea Shepherd, pronta per fronteggiare le baleniere giapponesi nell'Antartico. Ricordiamo che Sea Shepherd è quell'organizzazione ambientalista che si occupa della difesa della biodiversità marina e che ha rappresentato una scissione all'interno dell'organizzazione Greenpeace, perché evidentemente quelli di Sea Shepherd erano d'accordo con il green ma non tanto con il peace. Infatti questo battello super veloce di 30 metri, continuando a leggere da Repubblica, prende il nome dal celebre mostro di film di fantascienza giapponesi e andrà proprio ad affrontare anche con la dovuta durezza le baleniere giapponesi, pronti per affrontare una nuova missione con una nuova super tecnologica arma. Ha preso il largo oggi da Hobart in Tasmania il nuovo battello degli attivisti di Sea Shepherd, dell'organizzazione nata da una cosa di Greenpeace ben più aggressiva, come ricorda anche l'articolo, fondata dal capitano Paul Watson. Si tratta di un intercettatore super veloce di 30 metri dal nome terribile di Gojira, il celebre mostro dei film giapponesi conosciuto in altre lingue come Godzilla. Con il suo equipaggio di 11 marinai raggiungerà in mare aperto le altre due navi dell'organizzazione, la Steve Irwin, dedicata chiaramente al naturalista, celeberrimo naturalista ucciso dal colpo infertogli al cuore da una razza un paio di anni fa, e la Bob Barker, con a bordo altri 80 attivisti per lanciare una nuova offensiva contro la flotta baleniera giapponese che si sta per avviare la stagione estiva di caccia scientifica nell'oceano antartico, con una quota di mille grandi cetacei. E quindi vediamo come vengano messe in campo anche le più diverse iniziative a sostegno dell'ambiente. Qualcuno una volta diceva che la protesta è quando dico che una cosa non mi sta bene, mentre l'opposizione è quando faccio in modo che non succeda, e quindi questo sicuramente non può che trovarci d'accordo e non farci piacere il fatto che ci fa estremamente piacere che a Sea Shepherd ci si stia muovendo per difendere ancora meglio i cetacei. E forse qualche cosa dovremmo fare anche qui in Italia, perché sempre scorrendo tra le notizie su Repubblica, noi ritroviamo l'articolo del taglionetto ai contributi in pericolo per le riserve naturali in Sicilia. Avevamo citato già la scorsa settimana 73 siti naturalistici siciliani si trovano ormai in ginocchio, e questo è il prezzo che è stato pagato alla finanziaria, quindi a tutte quelle norme che stanno tentando di mantenere stabile il sistema italiano, che è un sistema capitalista sicuramente, ma un sistema capitalista particolare in cui intervengono numerosi fattori, fra cui corruzione sicuramente adesso non so bene neanche come dirlo, diciamo di cooptazione di quant'altro. E vediamo anche questa corruzione si intrecci. Torniamo verso con le vicende ambientali, torniamo verso il Parco dello Stelvio che viene smembrato, e per il PD questo si tratta proprio del prezzo della fiducia. Quindi qui riporta chiaramente l'opinione del PD, che a noi interessa ben poco, visto che forse se avessero pensato a fare opposizione prima non ci troveremmo in queste condizioni. Però che cosa è successo? Ecco, per non avere i voti contrari di un partito storicamente di sinistra come la Südtiroler Volkspartei, che è il partito autonomista della provincia di Bolzano, quindi dei tirolesi, che quindi delle popolazioni di lingua tedesca che abitano nel nostro paese, Berlusconi ha concesso lo smembramento del Parco dello Stelvio. Il Parco dello Stelvio è gestito dalla provincia di Trento di Bolzano prima, e praticamente passando la gestione alla provincia autonoma di Bolzano, quindi la parte di Bolzano viene gestita direttamente dalla provincia. Questo si tratta di un caso topico, ecco perché poi fondamentalmente si va il 14 e si comincia anche a non gradire più questo atteggiamento, questo tipo di governo. C'è un manifesto molto eloquente e molto efficace pubblicato dai compagni di Militant, che dicono: permetti che sono un po' incazzato, perché ovviamente quando questi sono i termini della questione ci si arrabbia, addirittura se gli stessi parchi naturali debbono essere sottoposti alle trattative per salvare le chiappette a Berlusconi, obiettivamente il sistema fa sempre più schifo. We'll be right back. cool. And when you're cool, people think that you're cool. E 34 sempre qui su Radio Onda Rossa, e mentre noi vi ricordiamo gli appuntamenti del 31 che saranno quello sotto Rebibbia dalle 11 alle 15 con Odio il Carcere per festeggiare la fine dell'anno invendo e protestando contro l'istituzione carceraria, per la serata invece serata ad Acrobax, serata a sostegno di Radio Onda Rossa per festeggiare l'anno nuovo. Take them to the youth authority home. First thing you learn, you gotta make it in this world alone. Black coat, white shoes, white hat, Cadillac, yeah. Put a time bomb. Black coat, white shoes, white hat, Cadillac, yeah. Put a time bomb. Now he's gone out, he got free, he got a coat, got a car. He's only 1 year old, he's running numbers from the bar. He's paid his people, he's getting deep in. Whatever he can move on in, you know that kid's a creeper. Lasciamo quindi questa breve rassegna stampa per dedicarci al nostro approfondimento di oggi. Come abbiamo scritto nella copertina, nell'introduzione, invocare una nuova logica di produzione non è più una questione meramente politica, ma diventa una questione di sopravvivenza. Le notizie che diamo, che tentiamo di dare, anche il messaggio che tentiamo di portare all'interno del movimento universitario e soprattutto verso, insomma, il messaggio rivolto agli studenti universitari è proprio quello di iniziare ad utilizzare le nostre energie che vengono dagli studi che facciamo per andare verso l'elaborazione di un'alternativa. In questo ovviamente ci scontriamo con un binomio che è tipico di un po' tutto il movimento, ovvero se dare più forza e peso alle questioni all'analisi e al combattere l'esistente, o se invece andare verso la costruzione di un'alternativa, quanto le due cose possano convivere, quanto possano entrare in contrasto, quanto una possa essere in effetti il palliativo dell'altra. Perché cominciare ad utilizzare la bicicletta in luogo della macchina, cominciare a diventare vegetariani o comunque avere un'alimentazione più responsabile ed un atteggiamento di vita più responsabile sicuramente non risolveranno i problemi, quindi si tratta sempre di una composizione di attività, di lotte e tutto quanto che debbono pervenire ad un nuovo equilibrio. In effetti se voi andate sul nostro sito abbiamo scelto uno slogan proprio per il nostro collettivo Preco Reis, che è inventori di un nuovo equilibrio. La spiegazione di questo è proprio che molto probabilmente a noi serve di inventarci un qualcosa di nuovo, di inventarci un nuovo equilibrio. In tutto questo ovviamente il collettivo Preco Reis sta nelle lotte universitarie e altrimenti non potrebbe essere, perché come abbiamo scritto in un comunicato uscito in occasione della giornata del 30 in cui protestavamo contro l'approvazione alla Camera dei Deputati del DDL Gelmini, soltanto l'università pubblica, che è luogo sia di erogazione di salario indiretto, quindi è luogo di dove i lavoratori possono possono mandare i propri figli e esercitare il loro diritto a mandare i loro figli verso un'istituzione che garantisca una istruzione di qualità. Però sicuramente non possiamo non dire che è anche un luogo di produzione intellettuale, e se questa produzione intellettuale è pubblica, possiamo sperare quantomeno che sia posta al servizio della collettività. Obiettivamente una produzione con i privati non è passibile di questo controllo, e quindi tante ricerche sul riscaldamento globale, tante ricerche sulla pericolosità per esempio dei cibi geneticamente modificati, obiettivamente sarebbe impensabile senza una università pubblica. E in tutto questo noi cerchiamo anche di trovare un modo per di orientarci verso le tante e varie connessioni e tendenze dell'ecologismo per come sono state concepite fino ad oggi, e vediamo ad esempio che veniamo in contatto con diverse aree, quindi quella che è l'area più anarco-ecologista, più orientata verso l'antispecismo e tutto questo, l'area che invece più ecoliberale, che parla di una economia magari sempre capitalista, però insomma di questo capitalismo verde che ovviamente ci convince poco. C'è sicuramente l'ecosocialismo a cui guardiamo, e quindi a tutte le teorie che derivano dalle analisi di Joel Covell e Michael Lowy, e in più insomma tanti altri movimenti. Oggi tante altre tendenze. Oggi vogliamo parlare di André Gorz, focalizzandoci su quella che è stata la sua ultima opera, che è ecologica. André Gorz è stato un filosofo e giornalista francese, e viene considerato il fondatore dell'ecologia politica. Nel 1964 ha fondato le Nouvelle Observatoire. La sua vita è stata tutta insomma costellata dall'incontro con il socialismo prima, con la tendenza esistenzialista al marxismo di Sartre, che poi lo hanno portato fondamentalmente ad incontrare le mobilitazioni del 1968 e ad integrare, ad incorporare proprio quel rifiuto proprio del sistema, delle sue istituzioni, chiedo scusa, e delle sue istituzioni che l'hanno portato a immaginare proprio un modo per fuggirne. Excuse me, sir, we're looking for these two men. Have you seen them? Rifuggire dalle istituzioni borghesi, rovesciare un po' quella che è l'impianto della società, esattamente come tentavo di rifuggire da una cosa che mi è entrata in gola e che mi stava quasi per ammazzare, ho deciso di lasciarvi un'altra volta con i Renzi. Thank you. quindi dall'elaborazione delle teorie di riforme rivoluzionarie, André Gorz passa dalla scrittura di Le Socialistes di Fisl, scusate il francese, comunque diciamo sono due opere che si chiamano Il socialismo difficile e Riforma e rivoluzione del 67 e del 69, e poi all'inizio degli anni 70 c'è l'incontro con l'ecologismo radicale. Noi ci stiamo riferendo a Wikipedia Italia, di cui facciamo comunque nostro l'appello, crediamo di poter fare nostro l'appello per il finanziamento di questo importantissimo strumento che sta diventando sempre più competitivo. E proprio qui c'è un appello del fondatore proprio all'inizio di Jimmy Wales per finanziare, insomma, se vi ritrovate 10 euro nella PostePay non sarebbe male, come non sarebbe male ricordarsi il nostro conto corrente postale 61804001 intestato a Radio Onda Rossa, via De Volci 56 00 185 Roma, perché proprio noi anche come Wikipedia forse una mano a qualcuno finiamo per darla. E continuando però comunque a parte questa breve digressione, continuando verso sulla vita di André Gorz, dal 1971 in poi arriva all'elaborazione dell'ecologia come mezzo di trasformazione sociale. Forse l'opera più importante è proprio Ecologia e Libertà, dov'è la presentazione dell'ecologia come mezzo di trasformazione sociale radicale e frontale del capitalismo, che riflette una concezione nettamente più anticapitalista. E un po' tutto, insomma, si fa carico di quella che viene definita l'ecologia politica. E qui possiamo venire anche al libro di cui stavamo parlando, che è Ecologica. Ecologica è stata l'ultima opera di André Gorz, che si è spento esattamente il 22 settembre del 2007, scelta volontaria, ha posto lui fine ai soggiorni all'età di 84 anni insieme con la moglie Dorin, che era afflitta da una grave malattia. E in questo libro si dà un po' il quadro di quella che potrebbe essere una logica ecologista, perché partendo dalla critica del capitalismo si arriva all'ecologia politica, che con la sua indispensabile teoria critica dei bisogni conduce un approfondimento che radicalizza la critica al capitalismo. E sicuramente l'ecologia politica è il fulcro di questa riflessione. L'ecologia viene definita da Gorz come scientifica quando si parla quando si parla proprio di studio dell'ecosistema, e badate bene che l'ecologia scientifica è una branca estremamente sviluppata ed avanzata delle scienze biologiche, che arriva addirittura a formalizzazioni in matematiche complessissime come la teoria frattale e ed una serie di elaborazioni matematiche per studiare i rapporti interni agli ecosistemi. Io insomma ho avuto il piacere di studiarla ed è stata estremamente illuminante, specie per un percorso di studi in biologia. È sicuramente una materia fondamentale, ed è quella che ti fa dire che obiettivamente non sai quanto possa essere complicato un ecosistema finché non vai a studiarti l'ecologia. E invece l'ecologia politica è proprio l'approccio, ok? L'approccio quell'approccio che studia il rapporto fra società ed ecosistema. Nella teoria di Gorz, che abbiamo fatto almeno De Goresse, abbiamo finito per fare estremamente nostro, convinti comunque della bontà di quel percorso, si arriva comunque a definire sempre in quest'opera ecologica Sarebbe però definire un meccanismo di interdipendenza, cioè i rapporti interni alla società umana, che sono quelli definiti dalle contraddizioni, ragionando in senso marxista, sicuramente vedremo come contraddizioni fra capitale e lavoro, o fra la contraddizione che ci può essere fra l'individuo e la società, quindi andando a esplorare un campo sicuramente più libertario. Bene, sono tutte interdipendenti a vario grado dalla contraddizione che c'è fra il sistema di produzione, quindi proprio la stessa società, e l'ambiente. Quindi soltanto un equilibrio, ed è questo forse l'equilibrio che noi andiamo cercando, soltanto un equilibrio fra società umana ed ambiente può portare ad avere un risultato anche in termini di liberazione delle masse. Appena 160 pagine in un libro estremamente veloce, dinamico e piacevole da leggere. André Gorz ci descrive dunque, era di questo di cui stavamo parlando qui su Radio Onda Rossa, sugli 87.9 per Onda Rice. André Gorz in questo saggio ci descrive con estrema efficacia quella che è la sua linea di pensiero, quella di come proprio dall'ecologismo possa scaturire una critica radicale all'esistente ed una possibile prospettiva di cambiamento. Ecco, una delle cose che almeno personalmente mi hanno colpito di più di questo libro è la descrizione dell'economia basata sull'automobile, perché si fa una descrizione estremamente efficace quando si dice che l'automobile di fatto è un mezzo di lusso, uno di quei mezzi nati per essere di lusso, nati per essere per pochi, che è stato forzatamente portato verso, con un'opera di finta democratizzazione, è stato portato verso le masse. Lui fa un esempio molto efficace, dice che voi immaginate la villa al mare magari sulle coste della Normandia o su qualche paesaggio, se la possono permettere in pochi, anche per una questione di spazio, perché se tutti avessero la possibilità, per esempio lui fa l'esempio della Francia e della Normandia, se tutti i francesi venisse data la possibilità di avere una villa al mare, E beh, tutti avrebbero una casupola piccolissima, perché? Perché non c'è, perché lo spazio fisico si esaurisce. Ed è un po' quello che succede con le automobili. Sono state disegnate per segnare il passo fra la borghesia e il proletariato, le classi diciamo subordinate nell'economia capitalista. E quindi, però, che cosa è successo? È successo che è stata poi esportata per ragioni di tipo economico, e questo ha finito per devastare completamente le nostre città, le nostre, e i nostri stili di vita, proprio come sarebbe stata devastata la costa della Normandia se a tutti venisse concessa una casa con una villa che si affaccia al mare. Infatti vediamo come si modificano le città, come si va a vivere, si sceglie di vivere sempre più nei quartieri periferici, perché i centri sono invivibili, ma i centri sono invivibili a causa delle auto, e sono le stesse auto che ti consentono di vivere lontano, però vivendo lontano dal centro della città comunque dovrai lavorare nel centro della città, e quindi in un gioco, in un vortice che sembra non avere mai fine, arrivi a ritrovarti magari imbottigliato nel traffico e stressato perché non riesci a fare i regali, come diceva la nostra copertina. E quindi ecco, poi si muove tutto questo fino ad arrivare ad una critica al lavoro. In questo, infatti, dal momento che è un argomento di acceso dibattito, questo lo avvertiamo, André Gorz nell'ultima fase della sua vita, soprattutto negli anni 90, abbraccia l'idea che il prodotto, essendo la ricchezza non più prodotta sulla base del lavoro, ma sulla base del profitto e delle dinamiche finanziarie, il salario non poteva essere un strumento di redistribuzione efficace. Quindi André Gorz, come tanti altri, come hanno fatto sicuramente molti pensatori, come fa buona parte del movimento, si è spostato su quella che è la linea dei sostenitori del reddito di cittadinanza. Obiettivamente questo, ecco, forse questo, io personalmente non sono un entusiasta del reddito di cittadinanza, non so, comunque c'è un dibattito vivo, insomma avvertiamo che comunque poi le conclusioni che dà Gorz, questo è quella di scorporare proprio il lavoro dal profitto, quindi il valore dalla retribuzione, quindi con un gioco che alla fine finisce per sposare tesi redditiste. L'opera è comunque degna di nota, e comunque arriviamo in chiusura di questa trasmissione a segnalarla, a consigliarla a tutti e tutte. Sulle note di Tote Thompson, gruppo tedesco famoso per aver rifatto il nostro Azzurro di Celentano, sulle note di Old Lang Syne, tipica canzone di Capodanno, vi diamo l'augurio e vi lasciamo con le nostre coordinate, che sono il sito www.ecorice.org e la nostra mail, che è info@ecorice.org, e con questo vi auguriamo sicuramente di sbronzarvi quanto più potete e di farlo soprattutto all'Acrobax, invitandovi all'Acrobax la sera del 31, invitandovi anche però sempre il 31 dalle 11 alle 15 a Re Bibbia con l'appuntamento contro il carcere, odio il carcere all'arembaggio, contro il carcere giorno dopo giorno. E con questo noi chiudiamo augurandovi di nuovo buon anno e soprattutto a tutti coloro che sono privati e private della loro libertà personale.